Pronto Emanuele? Ciao Matteo. Ciao, buongiorno e benvenuto. Sei ufficialmente il primo acquirente dei miei oggetti in diretta insieme a me. Come va? Benissimo, benissimo. Quando ti è arrivata? Prima nevicava pupazzi, adesso no, si sta bene. Tu dove stai Emanuele esattamente? Io sono vicino a Lecco. Sei vicino a Lecco? Di origine sono di Torino. Infatti perché tu mi raccontavi ieri quando ci siamo sentiti per la prima volta che tu di fatto da poco tempo hai praticamente cambiato vita. Sì, da pochissimo tempo. Io ho vissuto a Torino 36 anni, poi una serie di situazioni mi ha portato a stravolgere la mia vita. E quindi, prima cosa, non potevo che comprare la tua penna. Ok. E poi dopo, niente, un cambio epocale. Per me è bello, però. Esattamente, il cambio, mi raccontavi che il cambio è arrivato perché tu e tuo fratello gestivate un'azienda di famiglia, sì, vi è arrivata un'offerta. Poi dopo l'abbiamo venduta, dopodiché un anno sabbatico ci è servito per ripartire. E quindi abbiamo detto, ricominciamo. Senti, ma ecco, ad esempio, a proposito del cambio, no? Visto che oggi vorrei concentrarmi in particolar modo su quella cosa lì, no? Il fatto di cambiare vita, non per forza stravolgerla, vendere tutto, oppure andarsene a vivere in Sudafrica. Però come te è stato un cambio radicale? Banalmente hai cambiato lavoro, banalmente hai cambiato il luogo in cui vivevi, e banalmente adesso c'hai una figlia, c'hai una moglie, mi sembra una persona estremamente serena. Cioè, com'è che accade? Accade che un giorno ti svegli e decidi che cambi tutto, oppure è una cosa graduale quella che ti è successa? Dipende, dipende. Quando ti accorgi che devi cambiare, ti rendi conto che non è improvvisa, ma l'hai valutata. Okay. Hai sempre desiderato, ci sei arrivato piano piano. Però sul momento è una cosa improvvisa.